amici di Radio Big World, oggi in questa puntata registrata all'aperto sono davvero lieto di presentarvi Susy Pagliaro, una speaker molto brava e talentuosa che, oltre a cantare, comporre musica ed organizzare in qualità di psicologa una serie di iniziative volte a promuovere il benessere della mente e del cuore, conduce ormai da anni una rubrica radiofonica dedicata alla poesia inedita. Ma senza por tempo in mezzo, ascoltiamo subito che cosa Susy Pagliaro ha deciso di raccontarci di sé e delle sue tante attività. Buonasera a tutti, sono Susy Pagliaro di Maratea, in provincia di Potenza. Sono una psicologa e mi occupo di counseling sanitario e scolastico. Per quanto riguarda il primo, collaboro con il Centro Medico Specialistico Orio di Salerno e presto servizio presso l'associazione L'Incontro, sempre di Salerno. Inoltre ho uno studio qui a Maratea presso cui sono attivati percorsi per problematiche psicorelazionali, gestione dello stress e di sostegno nei percorsi di perdita di peso, con strategie mentali, comportamentali e motivazionali. Per quanto riguarda il counseling scolastico, presto servizio presso lo sportello di ascolto della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Maratea. Inoltre organizzo seminari sulla gestione delle emozioni presso i conservatori, i licei e le associazioni musicali. Organizzo anche seminari sul benessere psicofisico aperti al pubblico, l'ultimo dei quali si è tenuto il 3 giugno scorso presso il centro culturale ed è stato patrocinato dal comune di Maratea. Faccio molto volontariato. In parrocchia dirigo il coro del Gesù di Fiumicello. Con altri amici organizzo spettacoli musicali in cui canto anche con mia figlia e mio marito. Faccio parte del consiglio di amministrazione del Centro Culturale di Maratea e curo le letture dei brani negli eventi che organizza. Su Maratea Web Radio da circa 7 anni curo e conduco la rubrica La tua poesia, una rubrica ideata con il direttore della radio, Francesco Rizzo, che ci ha dato e continua a dare tante soddisfazioni. La rubrica fondamentalmente si occupa di poesia inedita, seguendo la scelta coraggiosa della radio anche dal punto di vista musicale, musica inedita ed autoprodotta per l'appunto. In quasi 7 anni abbiamo presentato tantissimi artisti e declamato poesie capaci di emozionare. Ho sempre amato la poesia e devo ringraziare Maratea Web Radio nella persona del suo direttore che mi ha dato e mi dà l'opportunità di condurre questa bella rubrica seguita in tutto il mondo e con la quale collabora anche il nostro Pietro Pancamo. Su Maratea Web Radio nel corso di questi quasi 7 anni abbiamo presentato tanti artisti, come detto poc'anzi, diversi gli uni dagli altri, ma con un denominatore comune, la poesia capace di emozionare. Questa sera vorrei declamare 6 poesie di 6 autori diversi, direi i beniamini della radio, quelli più affezionati di cui abbiamo presentato più opere. Declamerò le poesie Magia del mio mare, di Antonietta Mordente di Maratea, poi Lontano, di Antonio Limongi, sempre di Maratea, e Vidi l'alba, di Francesco Bergamasco di Avigliano, con la poesia Il cammino di Rubina Giorgi di Macerata, Attimo di Giovanni Mascia di Salerno e in ultimo Somiglianze del nostro Pietro Pancamo. Ve le vado a declamare. Magia del mio mare, una quiete che sa di viaggi, avventure, omeriche imprese, una luce che sa di passato, trasparenze d'acque che parlano di ninfe, di sirene, che lasciano ammaliati, immobili, perduti nel tempo. Lontano. Questi ultimi raggi al tramonto mi trafiggono il cuore, proiettando la mia ombra lontano. Non hanno più la forza di scaldare, ma, assaporando ebbrezze di infinito, alimentano ultime illusioni. E vidi l'alba. E in quel mezzo tra notte e giorno, buio e luce, un'esplosione d'aggrovigli di luce e riflessi di surreale bellezza, incomparabile neanche con il nostro immaginario, che pure non ha confini. E vidi l'alba, in quei riflessi ricreati all'infinito da accecare lo stesso sole, io mi ritrovai a guardarla con una nitidezza da far paura a me stesso. Io, in quel nascente giorno, lasciai i dubbi e alla certezza. Mi fu concesso, nonostante la superbia umana, di veder per un solo attimo, un solo istante, la sua imperscrutabilità. E vidi l'alba, riverberi di Dio. Con la poesia il cammino. Deve la poesia commuovere? Qualche volta o sempre? O mai? Forse qualche volta, poiché il cammino non è tutto nella luce, ma verso. E direi che, di più, la poesia debbe in sua specie distogliere dai cammini consueti e abusati, disorientare. E ancora, trovando d'anima qualche fine plasmabile cera, formando e incamminarla dove s'apre, possibile, regno dell'altro. Un attimo, un brivido, un caldo raggio di sole, un leggero vento, fuori e dentro di me. Un attimo ed è già passato, non è più. Eppure sempre, e sorride ogni volta che avviene la sua manifestazione nella realtà relativa. La realtà che finisce e che ricomincia, che muore e che nasce. Mentre la realtà assoluta la guarda morire e nascere. Con consapevolezza immobile, tranquilla, eterna. Somiglianze. A quest'ora ogni paese è un fagotto di stelle e di buio, ma lo è pure questo cielo vagabondo, guscio d'aria e di respiri, che stringe in un solo mondo città, mari e tempeste. Ma lo è pure questa via, intirizzita di pioggia, col subbuio incatenato ai lampioni e un po' di stelle che sussurrano al mio palazzo la ninna nanna. Vedo tante finestre chiuse fra perimetri di sonno. A quest'ora ogni uomo è un fagotto di buio e di stelle. Allora, per oggi è tutto, cari amici. A risentirci alla prossima puntata con un nuovo autore e nuove letture.